sorrisi afflettendo dolore, non solo per amore, lacrime che cadendo a terra suonano una sinfonia dolce amara, come attimi di rara tristezza dovuti all'amarezza del vivere, lacrime che scivolano con la leggerezza. E approcciati sopra di me, lascia che scorrano laddove gira il mondo, tu dormi tranquilla che domani passerà, tu dormi tranquilla che si asciuga tutto al sole. Lacrime che regalano emozioni, guardandosi negli occhi, perdendosi nell'amore. Lacrime versate, nottate passate, a ricordare noi, a pensare a te.